A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, aspettando la notte che potrebbe essere quella dello scudetto, quella di stasera con la Juventus a Trieste contro il Cagliari e il derby di Milano, aspettando questo, ultima domenica pomeriggio di campionato, domenica prossima tutti la sera, non so con quanti verdetti già scritti. Non ancora quello della salvezza, perché a Genoa manca un punto per la matematica certezza e sta perdendo 2-0 a Udine, ma soprattutto oggi pomeriggio si corre per il terzo posto e la notizia è che il Napoli, da molti dato come favorito per la terza posizione, sta crollando a Bologna, perde 2-0 il Napoli e il Bologna ora ha colpito un palo, ha sprecato un mucchio di occasioni la squadra di Mazzarri nel primo tempo e poi è stata punita da Diamanti al 18esimo della prima frazione e da Rubin in contropiede sull'ennesimo contropiede al 19esimo della ripresa. Mentre, come detto, l'Udinese sta facendo ciò che deve, cioè battere un Genoa peraltro è rimasto molto presto in 9 contro 11 per l'espulsione di Kučka, somma di ammonizione al 29esimo, e di Palacio, suppongo per proteste, perché altro non si è visto, Tagliavento è stato irremovibile su queste presunte proteste del giocatore argentino, 39esimo del primo tempo dopo che Di Natale al 30esimo, sugli sviluppi peraltro del fallo che era acquistato l'espulsione a Kučka, ha segnato una magnifica punizione per l'1-0 Udinese, nella ripresa al 20esimo il gol di Floro Flores. La Lazio sta vincendo e giocando un'ottima ripresa a Bergamo contro l'Atalanta, ma il gol è stato segnato nel primo tempo da Kozak al 35esimo. Poi ci sono altre due gare che contano per le statistiche, per i tabellini e per la classifica marcatori, perché c'è Rigoni ad esempio del Novara che grazie ai due rigori segnati 28esimo e 22esimo del primo tempo e 22esimo della ripresa si è portato a 10 gol, ma sono entrambe squadre già retrocesse come sapete, mentre a Palermo c'è la festa del gol, che non è festa per i siciliani perché stanno perdendo 4-3. Mostrando anche cose imbarazzanti pure in una partita difensivamente, pure in una partita che non conta nulla. Ma ci terrà aggiornati Dario Ricci, che saluto. Ciao Dario. Sì Carlo, buon pomeriggio a tutti. Da segnalare, come giustamente sottolineavi, la goleada da entrambe le parti di Palermo. Proprio pochi istanti fa è arrivato il terzo gol dei rosanero, la tripletta di Fabrizio Miccoli, c'è stato il lancio in profondità di Donati, Miccoli probabilmente in posizione di fuorigioco ha incrociato però con uno splendido destro al volo e ha siglato così il suo terzo gol personale nel tabellino dei clivenzi, da segnalare la doppietta di Pellissier. E poi, come sottolineavi, il palo del Bologna che è andato vicinissimo al 3-0 con Marco Di Vaio, oggi all'ultima partita, se le notizie di mercato verranno confermate, in maglia rosso-blu, un piatto destro che si è infranto alla base del montante alla destra di De Sanctis. Benissimo, grazie Dario, siamo alla mezz'ora grosso modo sui campi di Serie A e quindi vi terremo aggiornati su questi finali che insomma lanciano al momento l'Udinese al terzo posto, classifica parziale provvisoria dice Udinese 61, Lazio 59, Napoli 58, poi l'Inter gioca stasera 55, mi sembra discretamente tagliata fuori, fa notizia il Parma che ha giocato all'ora di pranzo e ha vinto la sua sesta partita consecutiva vincendo 2-0 a Siena, tra l'altro altro grande gol di Giovinco, a segno anche Floccari a tempo praticamente scaduto. Parma a 53 punti, gli stessi della Roma, due in meno dell'Inter, insomma, e fa notizia anche il campionato che sta facendo il Bologna, grandissimo dopo il grandissimo lavoro di Pioli, 51 punti in una classifica sempre parziale provvisoria per il Bologna, quindi due squadre emiliane sugli scudi in questo finale di stagione. C'è invece altra notizia da domenica, una domenica in cui ovviamente aspetteremo insieme la notte eventuale dello scudetto 8-0-0-24-0-0-24 e vediamo se la Juventus riesce a buttarlo dopo averlo costruito e ampiamente meritato. A questo punto serve solo freddezza, io credo, ai bianconeri, quella che è mancata purtroppo, e mi spiace molto, anche di questo parleremo dopo, a Delio Rossi in panchina l'altra sera. C'è in questa domenica, parleremo anche di Giro d'Italia, c'è stata anche una gara del moto mondiale che sta diventando, ai noi, non so se per ormai la totale mancanza di competitività della Ducati e di Valentino Rossi, o perché è davvero così, sta diventando noiosa quasi quanto la Formula 1. Vittoria di Stoner, che ha dominato anche questo weekend, che sembra davvero imprendibile per tutti, davanti a Lorenzo. Valentino Rossi settimo, e un altro pomeriggio estremamente grigio per lui e per la rossa. Mario Poltronieri, buonasera. Buonasera, ciao Carlo, buonasera a tutti. Trovi anche tu che stia diventando noioso il moto mondiale? Sono d'accordo con te e su, diciamo, su una certa noia della Formula 1. Nella moto, tutto sommato, anche se si sa ormai che i protagonisti sono quei due, più eventualmente Pedrosa e poi speriamo Dovizioso, che è arrivato quarto oggi, nella moto Pedrosa, c'è appunto l'emozione comunque delle immagini di questo mezzo che è equilibrio instabile e che si inclina in un modo impressionante, mentre invece la Formula 1 corre su dei binari schiacciata a terra com'è dall'aerodinamica e dall'avere quattro ruote comunque, relativamente meno emozionante. Cioè una moto a 200 all'ora fa un'impressione in curva, mentre invece la Formula 1 lascia indifferente che siano 250 o 300, lo spettatore non li percepisce. Questo è evidente, parlo di immagini visive, poi io preferisco le moto alle macchine in valore assoluto, però non so, sarà forse la suggestione del fatto che dopo essere stati abituati a tante corse e tanti mondiali vinti da Valentino Rossi, sai, vederlo arrancare lì dietro in maniera anche, trovo, un po' imbarazzante per la sua storia personale, ci priva di tanto pathos, insomma, di tanta passione, cioè non ci fa più saltare sulle sedie, ecco. Certo, però diciamo che oggi una piccola ripresa c'è stata, perché è fermo restando che la Ducati deve avere dei problemi di telaio, perché per quanto riguarda la velocità massima è sempre la moto più veloce rispetto a Lorenzo. Rossi aveva 5 km all'ora in più, 331 o 335 l'altro, e Barbera addirittura di più. Quindi diciamo che il motore Ducati comunque va. Tenuto presente che se i problemi sono, come timidamente accenna Valentino, sempre a problemi di telaio eccetera, la moto quando arriva sul rettilineo dove prova la velocità massima arriva a una velocità inferiore perché ha fatto la curva meno veloce. Quindi il problema Ducati è assolutamente un problema solo di telaio, non di motore. Sì. Sotto questo profilo Valentino oggi ha dato la dimostrazione comunque di riuscire nel gruppo di ducatisti ad essere primo, ed è una soddisfazione, perché Valentino fino a questo momento aveva lasciato molto perplessi con questo Hayden che andava più veloce di lui. Quindi io penso che, sono d'accordo con te, il grande entusiasmo, il grande successo di Valentino per adesso non si ripetono, però io ritengo che sia un campionato, per chi ama il motociclismo ovviamente, lo stesso interessante, perché effettivamente i primi tre sono partiti, erano secondo, due presa poco l'uno dall'altro, e così sono partiti che sono arrivati alla specie di deserto dei Tatari che non arrivano mai. Però l'emozione, come dico, che dà la motocicletta, la Formula 1 riesce a darla solo se c'è la Ferrari. Adesso, a proposito, visto che siamo in tema motoristico, comunque nelle prove che stanno svolgendo in questo momento al Mugello, comunque stanno andando sempre fortissimo, oltre al solito Vettel, anche le due Lotus, che quindi diventeranno anche quelle, io credo, protagoniste domenica nella gara Ventura. Catalogna. Dopo essere già state in Bahrain comunque, quindi le Lotus, attenzione, perché potrebbe non essere stato un ballo soltanto. Appunto, anche perché Raikkonen, nonostante tutto, ha dimostrato di aver ripreso in mano il discorso della Formula 1, forse meglio di quello che è successo a Schumacher. Sicuro. Grazie Mario, alla prossima. Arrivederci, a presto, buona salute. Grazie, grazie a Mario Poltronieri. Oggi c'era anche la Superbike a Monza, nel segno della pioggia che in questi giorni, insomma, picchia duro, in particolare sulla Lombardia. cancellata il primo round, nel secondo vince Six, ma assegnate la metà dei punti perché a metà gara la pioggia ha costretto alla bandiera rossa. Chiedo a Dario Ricci se c'è qualche aggiornamento da dare sui campi di Serie A. No, nessun Carlo, ma da sottolineare qualche errore abbastanza clamoroso, quello di Stendardo al 34esimo che ha ciccato da pochi metri l'1-1 dell'Atalanta contro la Lazio, quello di Di Natale che ha fallito dall'altezza del dischetto del rigore, il 3-0 per l'Udinese, e il sobbalzo è dovuto a una splendida punizione di Fabrizio Miccoli che si è infranta sulla traversa e quindi sfuma così il 4-4 tra Palermo e Chievo. Veramente splendida la punizione di Miccoli, sfortunato nel incocciare proprio la traversa. Vicino al 3-0 ancora il Bologna, sempre con Di Vaio, un destro da non più di 8 metri al lato della porta napoletana difesa da De Sanctis. Quindi restano questi risultati che a 90 minuti dalla più questi 5 e recupero dalla fine del campionato promuovono l'Udinese ai preliminari di Champions League. 800 24 00 24 per farci compagnia, per la vostra voce, per chiacchierare con noi, per dire la vostra in questo pomeriggio di sport. Adesso sentiamo il traffico e poi torniamo con i finali delle partite, con il tennis, perché come sapete Sara Errani ieri ha concesso il tris, 3 tornei vinti in stagione, una grande stagione per la nostra tennista, e c'è Seppi che è in campo per giocarsi comunque una finale contro Paire a Belgrado. È anche vero che noi italiani stiamo guardando con particolare attenzione ciò che succede in Moto3, perché pare stia nascendo una stella, ce lo auguriamo tutti, questo Romano Fenati, 16 anni, che è stato protagonista delle prime gare. Oggi purtroppo è caduto mentre era in lotta per la quinta posizione, ma ha vinto Sandro Cortese su KTM tedesco, pilota tedesco, ha vinto in volata dopo un duello con Vinales. Dario Ricci ci racconta il gol forse più comico di tutto il campionato. In una giornata così, Carlo, non poteva mancare il gollonzo. È arrivato da Novara, dove Rigoni ha fatto tripletta, ma tutto da raccontare il modo con cui è arrivato il terzo gol del giocatore novarese, perché c'è stata una bella discesa sulla destra di Morganella, il diagonale destro fortissimo che prima ha colpito il palo, poi è rimbalzato su Antognoli, poi ancora carambolato sul palo, e a quel punto sì, la palla stava praticamente rimbalzando sulla linea di porta. È arrivato Rigoni e ha siglato il 3-0. Ha fatto palo portiere, palo e poi Rigoni in tappino, una roba davvero comica. Segna anche il Palermo, sì, me l'aspettavo, guarda. Silvestre sigla il 4-4, calcio d'angolo di Miccoli, Migliaccio devia sul primo palo e sul secondo arriva Silvestre che in bella coordinazione al volo sigla il 4-4. Mancano ancora 45 secondi, chissà che la goleada sia finita qui tra Palermo e Chievo. Ma non so, ma comunque partita al di là di questo davvero poco interessante, e al di là di tutto il Chievo che non segnava da 5 partite, oggi ne ha fatti 4. Vabbè, invece parliamo di qualcosa di un po' più agonistico, che non è la rissa che sto vedendo tra Bologna e Napoli, rissa che si sta accendendo in campo anche con Di Vaio che prende a spintoni Zemaili, viene portato via da Lavezzi, insomma è periodo di botte in campo e di gesti di... così un po' di non un po' di gesti di follia. Però volevo parlare di tennis con mio amico Stefano Meroccaro da Sky. Ciao Stefano. Eccoci Carlo, buongiorno. Meglio che guardare diretta gol, sentire la radio con te. Non sto guardando la televisione, ma mi hai raccontato tutto, sì. Vedo praticamente le immagini senza vederle. Vabbè, queste che arrivano da Bologna si potrebbero tranquillamente evitare. Sì, in campo, questi periodi, c'è chi, di questi periodi c'è chiunque, in campo c'è chiunque, vedo un cartellino rosso per un giocatore del Napoli che è Zemaili. Vabbè, poi raccontiamo tutto. Stefano, non saranno gli Australian Open, non sarà Roland Garros, non sarà Wimbledon naturalmente, non sono tornei del Grande Slam, però Sara Errani ieri a Budapest e oggi Andrea Seppi, insomma, ci regalano scintille di tennis importante. Di italiano italianità, no? E poi c'era stato anche Fognini la settimana scorsa che aveva fatto finale, insomma ci stiamo un po' divertendo. Poi sai, adesso arriva proprio il momento del tennis, quello cui noi italiani tradizionalmente siamo più affezionati, no? Cioè la terra battuta, un tempo la terra rossa, sai che domani comincia il torneo a Madrid sulla blu, per cui voglio dire veramente non solo non ci sono più le mezze stagioni, ma non c'è più neanche la vecchia terra rossa. Però a parte questo, insomma, vabbè, la Errani è meraviglioso, cioè, ha vinto 15 partite consecutive sulla terra rossa e ha una continuità. Poi se l'avete mai vista giocare sapete che non è esattamente una giunone tipo Serena Williams, capito? Cioè una ragazza assolutamente normale che ha molta testa e molta voglia di correre per il campo. E poi c'è Seppi che invece sta giocando con questa specie di giocoliere francese che si chiama Benoît Paire, che però secondo me dovrebbe battere abbastanza agevolmente, perché Seppi è più forte, se vince questa partita arriva a numero 30, insomma torna nei primi 35 del mondo, che è la sua posizione, quella dove dovrebbe essere sempre. Tanto ha vinto il primo set 6-3. Esatto. Ha vinto il primo 6-3 e insomma comunque sono risultati importanti, cui sul fronte femminile insomma, non ti dico che eravamo abituati, insomma, siamo abituati abbastanza bene sul fronte femminile, su quello maschile un po' meno, cioè di tornei vinti non è che ne contiamo poi tanti. No, l'ultimo era stato proprio Seppi che aveva vinto l'anno scorso incredibilmente a Eastbourne, un torneo sull'erba, cosa che noi italiani non è esattamente che tradizionalmente ci piaccia troppo quella superficie lì. Come dicevi tu, guarda, non sono Slam, non sono neanche Masters 1000, però intanto la classifica è buona. Certo che se uno dei nostri ci facesse questa benedetta grazia di riuscire a fare una semifinale in un Masters 1000, ripeto, settimana prossima noi a Sky trasmettiamo Madrid e poi ci sarà Roma. Ecco, diciamo, se il miracolo avvenisse in uno di questi due tornei sarebbe un po' diverso anche come impatto emotivo sulla gente. Poi ci sono gli Slam, quelli oramai, cioè vuoi che ti dica da quanti anni non facciamo una finale uno Slam? No, perché tu mi sa che non eri nato. Io ero nato, tu no. Anno? Maschile 77, Corrado Barazzutti. Ero già grandicello, mio caro. Pure io. Parlo di finale, perché vittoria dobbiamo tornare al 76 di Adriano Panatta. Eravamo testimoni oculari anche lì. Senti, ma in prospettiva Madrid, Parigi e guardando più avanti Parigi, Roma, cioè Madrid, Roma e in prospettiva Parigi, come vedi la sfida tra Nadal e Quelli forti. Vedo che, guarda, è veramente intricata, perché Nadal ha confermato, voglio dire, 8 Monte Carlo e 7 Barcellona di seguito, vedi un po' tu, insomma. E dunque Nadal è Nadal, sulla terra è tornato Nadal. Djokovic è il numero uno del mondo e ha perso quella finale a Monte Carlo contro Nadal soltanto perché era molto provato emotivamente dai fatti di famiglia che gli erano successi in settimana con la morte del nonno. Torna Federer, che comunque va sempre considerato, a maggior ragione quando si gioca 2 su 3, uno dei più forti. Io toglierei Murray, perché si parla sempre dei Beatles, dei Fab Four, ma secondo me i Beatles sono diventati i Pooh, cioè sono tre. Sì. Praticamente erano 4, ne devi togliere uno. Ci metterei Del Potro, che secondo me è uno che sta tornando e può essere lui il quarto incomodo. Però Carlo, non possiamo sottacere sta storia della terra blu, perché è veramente una rivoluzione copernicana che si è inventata Tiriac a Madrid. Questa è veramente grossa. Non mi par di capire che non ti piace tanto. No, a me piace. Io invece sono del partito dei sì, perché le novità, quando non stravolgono l'essenza del gioco, mi piacciono. Allora la terra blu è una cosa che mi intriga, insomma. Voglio dire, sì, il tennis è quello, il punteggio è quello, anche la velocità del campo. Ma poi la superficie è quella, si tratta soltanto di un effetto cromatico curioso che... Esattamente, Tiriac, come tu sai, merita tutto il nostro... Aia. Tra blu aveva introdotto le raccate. Per cui venga, ecco, tutte novità che ci fanno divertire un po' di più. Non c'è dubbio. Grazie Stefano, ci sentiamo presto. Grazie a te. Grazie presto. Stefano Melocaro da Sky. Dunque torno certamente da Dario Ricci perché ci sono novità. Almeno tre spunti da segnalare. Facciamo chiarezza sulla rissa di Bologna. C'è stato il brutto fallo di Zuniga su Rubin, da lì il parapiglia e poi le espulsioni del bolognese Morleo e di Zemaili. Poi importantissimo direi il secondo gol della Lazio a Bergamo, che chiude la sfida al 44esimo. Zana da 25 metri, anzi forse anche 30, un destro imparabile che si candida ad essere tra i gol pesanti e seri della giornata, forse il più bello. E poi il colpo di classe, che non posso non segnalare, Carlo, dell'arbitro Gerbasoni, che in un indimenticabile 4-4 tra Palermo e Chievo, pensa, ha dato 5 minuti di recupero, magari c'ha il ristorante prenotato su tardi, forse. Finita Bologna, e finita anche, io credo, la speranza di Champions League, di terzo posto del Napoli, vero Dario? Direi proprio di sì, perché la classifica al momento registra Udinese 61, Lazio 59, Napoli 58 e Inter poi 55. Vedremo stasera derby e poi la sfida di Cagliari tra la Juventus e lì di Trieste tra Cagliari e Juventus. Grazie Dario, ci sentiamo dopo. Grazie a te Carlo. Grazie a Dario Ricci. Dunque sono tutti finali i risultati di questa penultima di campionato, che ovviamente vive sull'attesa di quella che potrebbe essere la notte dello scudetto juventino. Non dico il numero perché sennò si scatena l'inferno, non ho voglia di stare a fare la conta degli scudetti, però potrebbe essere la notte dello scudetto juventino. Ebbene, classifica, anzi risultati prima, che sono definitivi tutti quanti, partite tutte terminate. La Lazio che vince 2-0 a Bergamo con l'Atalanta, il Napoli che compie questo mezzo suicidio sportivo, perché era strafavorita per la corsa al terzo posto, perde di fronte ad un Bologna che però insomma ha fatto un finale di stagione impressionante ed ha una classifica impressionante, perché quei 51 punti a 3 dalla Roma e da un'altra grandissima squadra emiliana di questo finale di stagione, che è il Parma. Ebbene, sono una classifica forse indimenticabile nel rapporto qualità-prezzo nella storia dei rossoblù. Bologna che vince 2-0 con i gol di Diamanti e di Rubin, il Novara batte 2-0 il Cesena con Rigoni che si porta a casa il pallone segnando una tripletta, 2 su rigore e il terzo sul gollonzo che vi abbiamo raccontato. Finisce 4-4 un Palermo-Chievo da esattamente balneare, da fine stagione, mentre l'Udinese vince 2-0 con il Genoa, i gol di Di Natale nel primo tempo e Floro Flores nella ripresa, ma Genoa che ha giocato in inferiorità numerica per le espulsioni di Kučka al 29esimo e di Palacio al 39esimo del primo tempo. Allora adesso ditemi voi, 800 24 00 24, chi lo piglia lo scudetto? La Juventus magari questa sera, oppure il Milan in una improbabile al momento rimonta? Alla Juventus manca solo la freddezza necessaria per portare a casa il risultato, quella freddezza che dicevo prima. E anche qui, a proposito, ditemi la vostra, perché siamo ancora assolutamente in tempo, dato che è stato uno degli argomenti che più ha diviso in settimana, come era ovvio, freddezza che è mancata a degli orossi l'altra sera, Fiorentina che ieri si è salvata matematicamente, cosa che ancora il Genoa non è riuscito a fare. Però prima di entrare nel dettaglio di questi risultati, di cominciare a parlare con gli ascoltatori, Luca da Torino e Fabrizio da Milano già in linea, vi dico anche che la freddezza non manca al Manchester City di Roberto Mancini, e se vogliamo anche di Mario Balotelli quando c'è non è impegnato in altre cose. Non manca al Manchester City per fare un passo probabilmente decisivo verso il titolo, perché il City ha vinto 2-0 sul campo del Newcastle, che tra l'altro era interessatissimo a questa partita, perché in corsa per il quarto posto, doppietta di Yaya Touré al 25esimo e 44esimo della ripresa. Ora è in campo lo United con il Manchester United con lo Swansea, partita appena iniziata e punteggio di 0-0. Come vedete, anche in Inghilterra non fanno un gran caso alla contemporaneità, come si dovrebbe invece a mio parere fare. Ieri è stata anche discreta polemica innescata da Serse Cosmi, come si dovrebbe fare nelle ultime giornate di campionato, perché Cosmi non ha torto quando dice: vabbè, per lo scudetto gli date la contemporaneità e per la salvezza com'è sto discorso? Ha ragione, com'è vero che nel rispetto delle esigenze di mamma TV o padrona TV o sovrana TV, insomma, nel rispetto di queste esigenze si dovrebbe fare nelle ultime giornate di campionato, come in realtà è sempre stato fatto fino a queste stagioni. Detto del City, che tra l'altro, sempre per la cronaca, nell'ultima giornata ospiterà il Queen's Park Rangers, 37 punti e quart'ultimo in classifica, pari merito con il Wigan, quindi potrebbe festeggiare il titolo davanti a, alla sua gente sarebbe qualcosa di storico, anche per noi volendo, perché insomma non è che abbiamo così tanti tecnici capaci di vincere campionati importanti all'estero. Vi do i risultati di oggi, vi ribadisco i finali di oggi, come dicevano quelli bravi, e il verdetto di questo pomeriggio, in cui si correva per un terzo posto che ormai è in mano saldamente all'Udinese. La Lazio ci sta provando e ci proverà fino alla fine. Oggi ha vinto 2-0 a Bergamo con la Lazio, con il gol di Kozak nel primo tempo al 35esimo, e di Cagna, bellissimo il suo tiro all'incrocio dei pali, ormai a tempo scaduto al 46esimo della ripresa. Lazio che ha giocato certamente una buona gara a Bergamo, che ha meritato questo successo. Che rimane in scia all'Udinese, mentre il Napoli si squaglia letteralmente a Bologna dopo aver sbagliato una quantità industriale di palle gol in avvio di gara. Il Napoli è stato messo sotto dal Bologna al 18esimo con Diamanti su assist di Acqua Fresca. Poi tutti all'attacco nella ripresa, i napoletani, è entrato Lavezzi, Mazzari ha svuotato l'arsenale che aveva in panchina, tanti contropiede del Bologna, su uno di questi Rubina al 19esimo del secondo tempo ha siglato 2-0, il finale è stato rissa come abbiamo raccontato prima, con l'espulsione di Zemaili e Morleo e 15.000 napoletani che oggi erano allo stadio di Bologna, che dovranno riprendere la via di casa con le orecchie basse, perché a questo punto insomma non credo che l'Udinese butti ciò che ha costruito per un'intera stagione nell'ultimo turno a Catania. Udinese che ha battuto 2-0 il Genoa, gol di Di Natale su punizione al 30esimo, sugli sviluppi di un fallo per cui era stato espulso Kuzka al 29esimo del primo tempo, doppia ammonizione per lui, al 39esimo espulso anche Palacio, quindi Genoa in 9, e al 20esimo della ripresa Floro Flores ha segnato il 2-0. Le altre due gare contavano nulla: Novara batte Cesena 3-0 con tripletto di Rigoni, 4-4 tra Palermo e Chievo, che non mi sembra il caso di starvi a raccontare nei dettagli. Allora, all'Udinese basta un punto a Catania per arrivare terza e qualificarsi per i preliminari di Champions League a questo punto. La Lazio invece deve vincere l'ultima partita che giocherà in casa con l'Inter e sperare che l'Udinese perda. Il Napoli, per qualificarsi, deve ovviamente vincere, sperare nella sconfitta dell'Udinese e in massimo un pareggio della Lazio. L'Inter deve fare 6 punti sperando che l'Udinese perda e il Napoli non vinca l'ultima partita, quindi mi sembra praticamente tagliata fuori. Una battuta di Guidolin con Sky. La solita velocità, d'altra parte dopo 50 e passa partite non è neanche facile. È passata questa partita anche attraverso degli episodi. Intanto guardiamo ovviamente il giro d'onore dei giocatori dell'Udinese. È passata attraverso gli episodi. Ha visto anche lei protagonista non in prima persona, ma perché è stato testimone, nel senso che è stato espulso Palacio a un certo momento perché ha detto una parola fuori posto. Probabilmente Tagliavento pensava che fosse diretta a lui. I giocatori del Genoa, compreso Palacio, dicono che invece era rivolta al suo compagno di squadra Moretti. Lei come l'ha vista questo episodio e cosa stava dicendo con i giocatori del Genoa? No, è successo 30 secondi prima che in effetti stavano litigando, Moretti si sono detti qualcosa, Moretti e Palacio, e io ero lì perché c'era una rimessa laterale. Ma è chiaro che quello che è successo 30 secondi dopo in mezzo al campo l'ha visto solo l'arbitro, lo può giudicare solo l'arbitro. Io intendevo che volevo chiarire questa cosa perché non vorrei aver messo in qualche modo in difficoltà la terna, ma a me è stato chiesto se avevo sentito che avevano litigato fra loro sulla linea di fondo. Sì, avevo sentito. Prima dell'espulsione? 30-40 secondi prima, poi c'è stata un'azione in mezzo al campo e da lì deve decidere l'arbitro, io non posso dire altro. Ricordiamo l'area che... Questo è l'episodio dunque che vi abbiamo raccontato, era tra l'altro la seconda espulsione per il Genoa, condizionante per questa partita, però mi sembra strano che Guidolin possa aver sentito ciò che accadeva a una notevole distanza da lui, quindi tenderei a credergli. Dunque, prima del traffico e di Luca e Fabrizio che sono già in linea, la classifica aspettando le partite di questa sera: Juventus 78, Milan 77, Udinese 61, Lazio 59, Napoli 58, Inter 55, incredibile Parma che oggi ha vinto 2-0 a Siena, altra perla di Giovinco tra l'altro, 53 punti insieme alla Roma, 51 ne ha l'incredibile Bologna di Stefano Pioli, Catania 48, Atalanta, Chievo 46, Fiorentina 45, Siena 44, Palermo 43, Cagliari 42 punti, Genoa 39, ancora non matematicamente salvo perché c'è Lecce a 36, Novara 32, Cesena 22, già retrocesse da tempo. Ma stasera vediamo cosa succede. Domenica prossima 20:45 in contemporanea stereo, finalmente l'ultima giornata, si giocano Juventus Atalanta, Parma Bologna, Fiorentina Cagliari, Lazio Inter, Chievo Lecce, Milan Novara, Genoa Palermo, Cesena Roma, Napoli Siena, Catania Udinese. Questo il programma, mentre per quanto riguarda la corsa verso il terzo posto mi sembra tutto scritto, compresa l'esclusione dell'Inter, salvo cose che forse nemmeno nel calcio abbiamo mai visto. 800 24 00 24 per la vostra voce, mentre vedo che state scrivendo non poco con i vostri cellulari. Max da Roma ci va giù leggero: solo uno sport sano in forma, uno sport sano e in forma gioca solo in contemporanea, il calcio è in lenta agonia, un giorno vedremo la carcassa passare. Questo mi sembra un po' eccessivo, perché gioca solo in contemporanea, ormai in nessuno sport al mondo si gioca, almeno in quelli che interessano la televisione, si gioca in contemporanea, quindi questo è certamente eccessivo. Le ultime giornate in contemporanea invece, facciamo le ultime tre, io le vedo, insomma, le vedo con favore, non so voi. Luca Torino, buonasera. Sì, buonasera. Dica. Penso che in contemporanea già domani, io penso a più lungo, ma ci sia qualche convocazione, così siamo più contenti. In che senso? Ma penso che domani dottor Palazzi chiami, faccia una specie di appello, e allora vedremo lì veramente. Io vorrò vedere tanti cadaveri, anche se sono interista, dico questo, non ho un campionato modestissimo. Continuo a non capirla, io dico la verità, Luca, non so di cosa stia parlando, l'immagine non è felicissima quella che ha usato, non capisco chi dovrebbe convocare dottor Palazzi, se ci spiega facciamo prima. Sì, cioè, non capisco. Penso che domani ci siano, diciamo così, i primi rinvii a giudizio, a livello sportivo. Ma sta parlando delle cose di scommesse? Penso che dovrebbe chiamare anche Rocchi e Tagliavento. Rocchi, poi ho saputo, la notizia penso che sia ormai ufficiale, che è stato selezionato per essere l'arbitro alle Olimpiadi. Cioè, una persona così indagato e tutto quanto, lo mandiamo alle Olimpiadi a fare l'arbitro. Non ho parole, è una federazione non da rifondare, da cancellare. Sì. Perché solo una federazione così debole, così, voglio dire, senza potere, ha causato quello che ha causato, perché voglio dire, sì, tutti questi No, guardi, lasciamo stare, io farò finta, cioè preferirei anche dimenticare un po' questa telefonata, perché il tono è stato un po' infelice in un giorno in cui, cioè, me frega assai di Rocchi che va agli europei e alle Olimpiadi oggi, non ho voglia di questa polemica che porta dietro così tanta dietrologia che non riesco nemmeno a seguirla, dico la verità. Fabrizio Milano, buonasera. Sì, buonasera. Spero che non voglia fare il dietrologo anche lei. No, io voglio fare due domande semplicissime. Ah, meno male. Sono due constatazioni. La prima è che mi sembra, in prospettiva scudetto per la Juventus, nelle ultime 8-10 giornate sia stata indubbiamente più diciamo costante del Milan. Vabbè, Fabrizio, questi sono dati di fatto. Nelle ultime giornate la Juventus è stata semplicemente irresistibile, sia dal punto di vista dei punti totalizzati, dal punto di vista dei gol segnati. È stata travolgente la corsa della Juventus, cui manca solo la freddezza a questo punto per aggiudicarsi il titolo, non ne serve altro. Dica. Esattamente. La seconda cosa è, da milanista chiedo, come mai invece, e come ultimamente da quando è rientrato Cassano, mi sembra che la cosa di Ibrahimovic funzioni molto bene, e invece pare dalla formazione schierata, o comunque prevista, che giocherà Robinho. Ecco, lei può dare una chiave di interpretazione? No, non ci riesco perché la penso come lei, insomma, mi sembra che non fosse il caso di disfare la coppia Cassano-Ibrahimovic, visto anche ciò che hanno fatto non più tardi di 7 giorni fa. Robinho è per Allegri il titolare del Milan e lo propone nel derby. Non so dare altre spiegazioni, però anch'io, guardandola da fuori e non vedendo gli allenamenti, avrei confermato Antonio Cassano la formazione di questa sera. Chiedo un parere, già che è in linea, anche mio amico Enzo Bucchioni, direttore di QS. Ciao Enzo. Ciao Carlo, buonasera a tutti, ben ritrovati. vedendola da fuori, un po' è come dice l'ascoltatore, cioè perché sì, torna Robinho con Ibra quando questi due hanno, insomma, hanno giocato la miglior partita offensiva del Milan delle ultime giornate, domenica scorsa. Sì, io la butto sul piano fisico, cioè penso che la motivazione sia solo questa. Robinho è rimasto fuori due partite, due e mezzo mi pare, e quindi se lo ritrova Allegri fresco, mentre Cassano, reduce da un lunghissimo stop, sappiamo benissimo come sono i recuperi. Quando torni in campo dopo qualche mese ti sembra di essere subito o quasi al top, vai. Poi c'è la caduta atletica dopo una o due partite. Quindi evidentemente in allenamento durante la settimana hanno valutato questa situazione essenzialmente atletica, perché dal punto di vista tecnico hai ragione l'ascoltatore, Cassano ha fatto una partita importante, poi salta l'uomo, mette... Sì. Ibrahimovic in condizione di giocare al meglio, sempre di sì, mettere in evidenza le sue straordinarie qualità, mentre ultimamente Robinho sembrava un pochino in calo. Evidentemente questo stop gli ha giovato e ha ritrovato la freschezza. Ecco, io non ho altre motivazioni. Nemmeno io. Faccia di circostanza, cioè da funerale sportivo naturalmente, per Mazzarri che vede i microfoni di Sky. Sentiamo insieme. Poi nel calcio i segnali si raccolgono. Quando noi si parte come siamo partiti e la palla non entra mai, facciamo 6 palle gol. Siamo davanti al portiere, vedi la traversa che respinge, la palla di Amzi che sembrava, era più sembrava più facile di un rigore, il portiere ci arriva, Cavani tutte le occasioni che ha avuto, loro escano dalla propria metà campo una volta, al primo tiro ci fanno gol, lì capisci che il calcio ha fatto di queste cose, oggi era segnata. Mi dispiace solo che il secondo tempo ci siamo arresi sul 2, abbiamo fatto anche lì un po' meno del primo tempo, ma nel momento di maggiore sforzo hanno trovato il 2-0 sempre con, mi sembra, l'unica occasione in cui si hanno superato la metà campo, e lì da lì in poi effettivamente non ho cercato di incitarli, ma 2-0 mentalmente ha tagliato le gambe a tutti e non si è più giocato, e lì mi è dispiaciuto dal 2-0 in poi, perché come si è fatto tante volte l'anno scorso, anche sul 2-0 bastava un episodio, la riapre, noi siamo una squadra che creiamo tanto, poteva succedere anche di fare un punto, recuperare almeno la partita, peccato, è così, e oggi è una partita secondo me segnata, e se visto prendiamola, accettiamola, andiamo avanti, la prossima. Questo è Mazzarri. Enzo, mi sembra un po' semplicistica la spiegazione del natore del Napoli, buttarla solo sulla sfiga e sulla peculiarità del calcio che molto concede alle stelle, mi sembra un po' semplicistica, perché sono queste partite che una grande squadra come io considero il Napoli non può sbagliare. Assolutamente, la sfiga aiuta quando non sai cosa dire, sì, o quando, sì, non, sì, puoi, quando non vuoi dire la verità, certo, non quando non puoi pigliartela con l'arbitro che in questo caso non ne ha fatte tante, cioè non ha fatto nulla, certo. Allora te la pigli con la sfiga, che la sfiga va benissimo. Ma uno strano Napoli oggi, un Napoli che attacca così a testa bassa lasciando spazio alle spalle è inusuale, perché è sempre molto attento dal punto di vista tattico questa squadra, addirittura era il Napoli stesso che agiva al contrario, cioè molto raccolto e poi fiondate in avanti negli spazi. Forse l'agitazione di arrivare a quel terzo posto, che era un obiettivo importantissimo, ha fatto perdere un pochino la ragione a tutti, sia in campo, ma anche Mazzarri non mi è sembrato lucidissimo. Questa storia di Lavezzi, io personalmente uno come Lavezzi lo metto sempre. Anch'io, soprattutto in partite così delicate, così decisive. Sì, perché è uno che da solo, con un colpo, con una magia, può risolverti una partita, e quei gol lì che hanno sbagliato, ha ragione Mazzarri, ne ha sbagliati tanti. Sì, probabilmente la lucidità di Lavezzi sotto porta poteva servire, questo è già un errore. E poi non aver dato dal punto di vista tattico la giusta misura, aver sottovalutato anche il Bologna, perché il Bologna è una grandissima squadra, dal punto di vista dell'interpretazione tattica della partita. Pioli si sta dimostrando un allenatore con i fiocchi, e quindi il Bologna non molla mai. Insomma, una partita un po' ingenua, se vuoi, dal punto di vista tattico del Napoli, ma poi anche dal punto di vista fisico queste squadre sono molto provate, si è giocato troppo nelle ultime settimane, qui spieghi anche l'altalena di risultati da una partita all'altra. Certo, non c'è dubbio, Enzo. Dicevo prima che alla Juventus serve solo la freddezza per vincere uno scudetto strameritato, oggi con il Cagliari e poi domenica prossima contro l'Atalanta. Freddezza, quella freddezza che, e mi dispiace tanto, Delio Rossi non ha avuto l'altra sera. Come diceva Boscov, testa fredda e piedi caldi, questo ci vuole alla Juventus, cosa che non ha dimostrato con il Lecce, con il Lecce non ha dimostrato questa freddezza, quindi l'unico punto interrogativo sulle partite, sulla partita di stasera, quella di domenica prossima, se sarà ancora in ballo, è questo, la Juventus è matura per certe situazioni, ecco, mi lascio questo piccolo punto interrogativo e poi vengo alla tua domanda a Rossi. Rossi l'ha fatta grossa, però io non sono di quelli che ha voluto buttare, non la butto neanche a tre giorni di distanza dal fatto la croce addosso a Rossi. Il gesto è condannabilissimo, ma anche comprensibilissimo, secondo me, perché lo inquadri in un clima di tensione straordinaria che c'è attorno al nostro calcio, che c'era dentro la Fiorentina, e poi al comportamento di questi ragazzi strapagati, stramaleducati, straviziati, che devono darsi una regolata, e se non se la danno loro devono dare le squadre una regolata agli ingaggi, ai comportamenti, in maniera molto dura, severa, perché non, queste scene qui non se ne possono più vedere in campo, se ne sono viste anche oggi peraltro, a Bologna, proprio una partita che stava correndo liscia, abbastanza tranquilla dal punto di vista comportamentale, una bella risetta di tre minuti, non si fanno mai negare nulla a questi giocatori. No, certamente, poi ci resta un sottile, perverso e sbagliatissimo piacere di fronte alle immagini che sono arrivate ieri da Colonia, o alla bottiglia in faccia all'arbitro Gomez di Granada Real Madrid di ieri sera, possiamo dire, però non solo in Italia succedono queste cose, però... Non è certo una giustificazione, bisogna essere malati per gioire davanti a queste, a queste distorsioni che vediamo anche all'estero. Certo. Non è neanche una consolazione, ma io allargo, ho visto delle immagini di due squadre di rugby che si sono menate di santa ragione, quindi se si allarga il virus anche al rugby siamo fritti. Anche perché quelli sono più grossi e quelle te le danno. Enzo, ti chiedo un'ultima cosa su un allenatore, una persona che conosci bene, come Cesare Prandelli, perché si torna a parlare di lui per la panchina dell'Inter. Io molte volte ho detto, sarei veramente deluso da Prandelli se mollasse la nazionale a metà del guado, dopo un biennio, a prescindere da come andranno gli europei. Il CT che prende l'incarico deve arrivare ai mondiali, questa è la mia idea. Però io dico che Prandelli questo incarico l'ha sempre accettato con una gioia relativa, ha capito che era il coronamento di una carriera e quindi la felicità c'è stata, però non ho mai visto con gli occhi felici che aveva quando allenava la Fiorentina, perché secondo me, e lui lo dice candidamente, perché essendo una persona onesta non nasconde i suoi sentimenti, io ho bisogno del campo, ho bisogno dei ragazzi tutti i giorni, ho bisogno di insegnare le diagonali, è un sacchiano Prandelli, ho bisogno di stare tutti i giorni lì a tirare le punizioni, a parlare con i miei, a confrontarmi con il gruppo, con la squadra, la nazionale la vedo ogni tre mesi, e sinceramente per un allenatore è un po' castrante una situazione di questo tipo. È vero, direi tu lo sapeva quando ha preso la nazionale, però c'era stata la vicenda con la Fiorentina, non si erano lasciati bene, al momento è stata un'ancora importantissima di salvezza e una via di uscita, ripeto, straordinaria, perché sei il CT della nazionale. In questi anni forse Prandelli ha pensato che il suo mestiere non sia quello lì, non è il CT ma è quello dell'allenatore sul campo. Morale va all'Inter. All'Inter, ma anche alla Roma, Luis Enrique non si sa ancora se resterà o non resterà, insomma, è chi non lo prenderebbe Prandelli. Sicuramente dei contatti ci sono stati, anche se lui lo nega giustamente, e anche la Federcalcio ha fatto sapere che comunque onorerà il contratto, sai che discorsi dobbiamo prenderli con le molle. Poi la realtà è questa, lui, e l'ha detto anche alla presentazione del suo libro in settimana, il campo gli manca moltissimo, quindi chi vuol capire capisca. Grazie Enzo, buon lavoro. Grazie a voi tutti, Enzo, buon pomeriggio. Enzo Bucchioni, direttore di QS, faccio in tempo a parlare con Steve dalla provincia di Alessandria prima di fermarmi un attimo. 800240024 per le vostre voci, dica. Sì, buonasera. Io sono milanista, sto andando a vedere il derby e volevo chiedere se secondo voi Allegri, indipendentemente da come finirà la stagione, rimarrà sulla panchina del Milan o meno, e se c'è un possibile sostituto sicuro. Ma secondo me è difficile dire indipendentemente, tanto per cominciare, che un conto è vincere lo scudetto, cosa che mi sembra nella logica piuttosto difficile, un conto è invece non vincerlo. Penso che Allegri non sia, ma questo lo intuiamo più che saperlo, non sia così amato dalla proprietà del club, almeno dal capofamiglia, perché poi leggevo che invece la figlia Barbara starebbe dalla parte di Massimiliano Allegri, ma queste sono quasi vicende familiari, però non è così amato dalla proprietà del Milan. È chiaro che il Milan è più forte da Juventus, era insomma proprietario di questo campionato e poi si era lasciato sfuggire dalle mani. Vediamo cosa succede, insomma, tanto come finisce questa stagione e poi che ne sarà di Allegri. Ma secondo me è un bravissimo allenatore, certamente con uno che non dice sì ad ogni richiesta che arriva dall'alto, e questo al Milan sappiamo come si possa anche finire per pagare. Non so chi mi scrive, volevo leggervi una cosa. Va bene il suo profondo anti-interismo, cosa non vera, ma comunque. Ma un po' di equilibrio non guasterebbe. L'Inter oggi non è esclusa definitivamente dalla possibilità del terzo posto. Infatti, l'ho detto prima, deve fare 6 punti con l'Udinese che perde a Catania e il Napoli che non vince in casa con il Siena. Il Napoli non vince in casa con il Siena. L'Inter deve fare 6 punti stasera al derby e domenica prossima sul campo di una Lazio che oggi ha vinto 2-0 a Bergamo. Mentre Mark Cavendish vince la prima tappa in linea del Giro d'Italia, tra pochissimo ne parliamo, dunque state con noi, faccio un salto a Bologna dove c'è Emilio Buttaro per noi. Ciao Emilio. Ciao Carlo, un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Sono in compagnia di un gradito ospite, insieme a me c'è Giovanni Galli, grande ex portiere di importanti squadre come Fiorentina, Milan ed anche Napoli per ben 3 stagioni. Ecco Galli, come commenta questo risultato a sorpresa maturato oggi qui alla Lara? Ma diciamo che il primo tempo è stato un primo tempo dove ha fatto tutto il Napoli, a mio avviso, perché ha creato diverse occasioni da gol ma le ha clamorosamente sbagliate, fallite in un paio di circostanze. È stato bravo agli altri, ma poi il resto sono state solo ed esclusivamente mancanze dei giocatori, cioè errori proprio di mira dei giocatori, così come l'errore che è stato commesso a livello difensivo sul gol di Diamanti. Pensavo, vista l'importanza della posta, che nel secondo tempo potessimo rivedere magari come nella partita di Roma, cioè un Napoli completamente diverso, trasformato, ed invece quando vai a vedere il tabellino, lo score finale, tiri in porta nel secondo tempo neanche uno, per cui credo che Napoli si sia giocato da solo male le proprie carte. Ecco, probabilmente il Napoli dovrà dire addio alla Champions League. Secondo lei si è chiusa anche l'era Mazzarri? Ma signor, io non credo che questa sia da considerare una stagione negativa, perché per 7 mesi ci ha fatto sognare in Champions e siamo stati tutti orgogliosi di quello che il Napoli stava facendo. Detto questo, è arrivato in finale di Coppa Italia e a due partite dalla fine si stava ancora giocando l'ingresso in Champions League. Ora, se questa è una stagione fallimentare, le altre 20 squadre di Serie A che devono fare? Insomma, voglio dire, credo che Napoli abbia fatto tantissimo. Purtroppo la situazione della Champions, cioè l'impegno della Champions, l'ha prosciugata, a mio avviso, sotto l'aspetto psicologico, mentale, di energie nervose. Ecco, questo sì. Ecco, infine un'ultima battuta, oggi qui a Bologna si è festeggiato anche, i tifosi del Bologna hanno salutato Marco Di Vaio, una festa davvero per lui, una scelta giusta quella a suo avviso del capitano del Bologna. Beh, come si fa a giudicare le scelte che fa un uomo di 36 anni con famiglia che si sposta per andare da un'altra parte? La cosa che devo dire mi è piaciuta nelle sue dichiarazioni è dire voglio andare via nel momento in cui ancora la gente mi vuol bene, meglio lasciare un giorno prima, no? Credo che questo sia la misura e la dimensione dell'uomo prima del giocatore, per cui gli faccio veramente un grande in bocca al lupo. Carlo, non so se hai qualche domanda per Giovanni Galli. Io a Giovanni voglio chiedere, a uno che è di scudetto ne ha vinto qualcuno di titoli, se la Juventus secondo lui ha le qualità emotive per riuscire a reggere la pressione, perché si tratta solo di questo a questo punto, non ci sono questioni tecniche, perché gioca contro due squadre che non hanno più nulla da dire. Sì. Secondo te Giovanni, la Juventus rischia davvero qualcosa in questo finale di campionato? Ma come hanno sempre detto i giocatori, ma soprattutto Conte, credo che tutto sia legato proprio a... cioè sono loro, no, i responsabili e causa del loro destino eventualmente, proprio perché hanno, a mio avviso, fatto anche loro una stagione straordinaria. adesso sono all'ultimo, al match ball, e questo bisogna avere la capacità mentale e non fare, e fare in modo che la maglia non pesi così tanto. Già la maglia della Juventus è una maglia importante, quando poi dopo è carica anche magari di altre situazioni come quella di che può capitare stasera, penso che ci siano dei giocatori guida che possono trascinare lo spogliatoio. Sì, sì, sì, però sì. Sai, è pur sempre una partita che può aprire veramente un ciclo diverso e far ritornare la Juventus in un calcio di prima fascia. Ah, certamente. Grazie Giovanni, grazie. Prego, grazie, grazie alla prossima. Grazie a Giovanni Galli e ad Emilio Buttaro che lo ha intercettato lì a Bologna. 800240024 è il vostro momento, aspetto le vostre voci. Tommaso da Lecce, per esempio, buonasera. Sì, buonasera. Senta, alla luce della sconfitta del Genoa, sì, lei pensa che il Lecce ha qualche possibilità di salvarsi domenica prossima? Ma guardi, grazie. Tommaso, grazie a lei. Secondo me lo meriterebbe, però guardando il Palermo, anche per come l'ho visto oggi, Palermo che giocherà in casa, se casa si può chiamare, quella del Genoa, ricordiamo che Marassi è squalificato, insomma mi sembra difficile, onestamente mi sembra difficile, Lecce può certamente vincere a Verona con un Chievo già salvo, io non credo che il Genoa possa perdere, onestamente, con il Palermo che abbiamo visto nelle ultime giornate, che è qualcosa di imbarazzante. Ci fermiamo per il traffico, dopo torniamo insieme 800240024 per fare un salto al Giro d'Italia. A proposito, preparatevi, perché dopo la viabilità vi farò la domanda, cosa che accadrà tutti i giorni, una domanda sul Giro d'Italia, attraverso la quale, attraverso cui risposta via SMS, potete vincere un polsino di Radio 24 come quello che Ivan Basso porterà in tutto questo giro. Voci dal giro. Sì, voci dal giro, stiamo per parlare di Giro d'Italia, di questa tappa vinta da Cavendish, però visto che siamo in diretta e che è una notiziona, ve la do lo stesso anche se non riguarda il ciclismo, ve la do subito, immediatamente, visto che la partita è appena finita. Andrea Sasseppi ha vinto il torneo di Belgrado battendo il francese per 6-3, 6-2, si tratta per lui del secondo titolo ATP in carriera, titolo che arriva dopo il tri scalato ieri da Serrarani, quindi un weekend straordinario per il nostro tennis. Per il nostro ciclismo invece ci auguriamo possa diventare un giro straordinario. Fino adesso, insomma, due vittorie straniere. Piero Augusto Stagi dalla Danimarca. Ciao Piero Augusto. Ciao. Cos'è successo oggi? Buon pomeriggio a tutti. E oggi è successo che volata doveva essere volata e tutti attendevano la volata del campione del mondo Mark Cavendish, e Cavendish ha vinto alla grandissima. C'è stata una caduta molto pericolosa a 500 metri dal traguardo, fortunatamente non si è fatto male a nessuno, però qualcuno è rimasto imbottigliato, come ad esempio il nostro Andrea Guardini, giovane velocista che era lì pronto per buttarsi nella mischia. Cavendish invece ha evitato tutto ed è stato nettamente superiore. Buono il quinto posto di Roberto Ferrari, quindi il migliore degli italiani, ottavo Daniele Bennati, e per il resto abbiamo ai primi due posti due vincitori della Milano-Sanremo, Mark Cavendish, secondo Matthew Goss. A testimonianza del fatto che si fa sul serio. Non vale per te, tu non puoi rispondere alla domanda che farò tra poco, possono rispondere via SMS 349-238-6666 e devono rispondere gli ascoltatori. Per vincere il polsino autografato di Ivan Basso, e la domanda è questa: quanti Giri d'Italia ha vinto Miguel Indurain? 349-238-6666, tu Piero Augusto Stagi stai zitto. Potete anche vincere, è uno dei premi che mettiamo in palio, non solo i polsini ma anche la tappa del 20 maggio a bordo della ammiraglia di Ivan Basso. Questo premio andrà a chi invierà un breve racconto, 5-6 righe via mail, di una sua avventura personale al Giro d'Italia, alla mail di A Tempo di Sport. Torniamo invece a Giro d'Italia, non tanto alla tappa di oggi risolta in volata da Cavendish, quanto alla crono di ieri che ha È vero, era 8 km, è vero, era un prologo, però già qualcosa si è intuito. Si è intuito che Cunego e Scarponi, che molti vedono come galli nello stesso pollaio, quello della Lampre, a contendersi questo Giro d'Italia, non hanno ancora una condizione brillantissima. Mentre Ivan Basso, nostro amico, è partito davvero forte, perché ha disputato una grande cronometro. Sì, assolutamente così. Ivan ha impressionato per l'agilità che ha avuto nella sua cronometro. Lui generalmente aziona, ed era un suo difetto, un suo limite, azionare lunghi rapporti, troppo impallate. Invece ieri ha un percorso assolutamente non adatto a Ivan, pieno di curve, revisionava a rilanciare continuamente l'azione. Lui ha veramente studiato nei dettagli il percorso, soprattutto si è allenato, ha fatto una preparazione particolare per fare più frequenze, tanto è vero che faceva 108 pedalate al minuto, quindi un'ottima frequenza per uno come lui, e alla fine ha, come si dice in gergo, ha salvato la gamba e ha ottenuto un risultato veramente molto buono. Che certo non vuol dire che non vuol dire nulla naturalmente, però tu sai bene che a livello psicologico serve, perché ad esempio in casa Lampre stamattina i musi erano parecchi lunghi, e Cunego e Scarponi non si aspettavano assolutamente di prendere una lezione così e di essere così in ritardo, perché sostanzialmente hanno perso da tutti e quindi per loro il giro inizia maledettamente in salita. Per Ivan bisogna stare, come dice lui, stare attenti in queste tappe danesi, quindi ieri l'ha superata, oggi pure, che è stata ostica, perché comunque anche nel finale abbiamo visto la stessa maglia rosa, 8 km dal traguardo, che alla fine è caduto, ha avuto un problema anche la catena, e poi grazie alle sue doti di grande passista e poi all'aiuto di Alessandro Ballan e dei suoi compagni di squadra è rientrato prontamente nel gruppo nel finale, quindi ha difeso la maglia rosa. Però sono tappe difficili, perché ci sono strade strette, c'è molto vento, fa molto freddo, c'è grande nervosismo, perché in tutte le grandi corse a tappe nei primi giorni tutti si sentono con le energie piene e quindi hanno voglia di portare a casa qualcosa, quindi tutti vogliono stare nelle prime posizioni, tutti vogliono lottare per una vittoria di giornata, e spesso e volentieri molti finiscono per terra, gambe levate. E oggi è stato così. Però Ivan, ad esempio, tornando al discorso che stavamo facendo, è stato bravo, lui e la Liquid Scamandel, a rimanere nelle prime posizioni, mai in posizione di difficoltà, si è difeso bene, e adesso, se domani supererà l'ostacolo di domani, hanno la possibilità di disputare poi mercoledì a Verona una cronosquadre che potrebbe così mettere ancora meglio, migliorare la posizione di Ivan in classifica generale e cominciare a mettere un po' di fieno in cascina. Certo. Per chiudere, rispondi tu alla domanda che ho fatto prima, perché io il vincitore ce l'ho già. Quanti giri ha vinto Michele Indurain, Piero Augusto? Michele ne ha 22. Ne ha 22, dunque l'ascoltatore che ha inviato un messaggio non firmandosi, vi prego di firmarvi, poi vi rintracciamo noi con i nostri potenti mezzi, però ho già un vincitore: Michele Indurain ha vinto 2 giri d'Italia, non 3, 4, 5 o 7 come ha scritto qualcuno. Michele Indurain ha disputato 3 volte il Giro d'Italia, 2 vittorie, l'altra è finita sul podio nell'anno 1994, quello di Marco Pantani dell'esplosione. Così abbiamo dato ha messo anche la cornice al vincitore. Grazie Piero, alla prossima. Grazie a voi, alla prossima. Buon pomeriggio a tutti. Alla prossima e a tutti i giorni con Piero Augusto Stagi, che ci racconta questo Giro d'Italia. All'appuntamento dopo il GR delle 19, in coda al GR delle 19 con lo speciale Giro d'Italia, lì sentiremo il racconto proprio di Ivan Basso. Voci dal Giro. Noi dunque chiudiamo questa parentesi dedicata al Giro, che però tutti i giorni naturalmente resterà aperta con i nostri vari e tanti speciali dopo GR Sport della mattina, dopo GR delle 13, dopo GR delle 19, ogni giorno con il racconto, con il diario sonoro di Ivan Basso e ogni giorno con questi cadeau, questi polsini autografati e con la possibilità appunto di vincere la tappa del 20 maggio a bordo dell'ammiraglia. 800 24 00 24 è il numero verde. Vedo parlare Fabrizio Miccoli, che oggi ne ha segnati tanti, ne ha segnati tanti in una partita che non contava nulla, ne ha segnati tre, si è portato a casa il pallone. Così, e lui poi si è convinto, l'avversario, sì, diciamo. per noi sicuramente ha fatto un bel gesto, per loro penso un po' meno, però alla fine dalla sua ha avuto il fatto di essere onesto. Non abbiamo parlato di una cosa, però so di chi stia parlando il tatuatissimo Miccoli. Patrizio da Tarquinia. Sì, pronto. Volevo sapere se l'Inter stasera ha tutti gli stimoli per giocarsi la partita al 100%, sì, anche al 1000%. Sì. Secondo lei no? Ha dei dubbi? Tanti tifosi del Milan e dell'Inter dicono che non è così. Perché? Per la storia di non favorire la Juventus? Sì. No, io non credo. Guardi, io non credo anche perché, insomma, l'Inter è praticamente fuori dalla Champions League, la stagione che ha giocato la conosciamo, rischia ancora di non finire neppure in Europa League, non so quanto in foro buona parte possa interessare la partecipazione all'Europa League, però insomma una sconfitta in un derby credo che non sia barattabile con un favore tra l'altro ai cugini del Milan e un dispetto alla Juventus. Se volete riparliamo dopo il GR. Giornata molto azzurra con le racchette, come abbiamo detto, con Seppi che ha vinto il torneo di Belgrado, ma anche con le mazze da golf, perché Francesco Molinari ha vinto con 280 colpi un torneo molto importante come l'Open di Spagna, disputato al Real Club de Golf di Siviglia. Settimo posto per Matteo Manassero. Mentre a Palermo è tutto molto comico, è stata comica la partita, questo 4-4 tra Palermo e il Chievo, che non segnava peraltro da 5 partite, e sono abbastanza comiche anche le dichiarazioni di Bortolo Mutti. L'arbitraggio è stato molto allegro, Gervasoni ha riaperto la gara fischiando un rigore su Pisano incredibile, usa proprio questo termine, molto allegro. Dovete vedere la difesa del Palermo se è stata allegra oppure no. 800 24 00 24, il numero verde. Carnevalesca direi la difesa del Palermo, al di là dell'arbitraggio di Gervasone del rigore su fischiato a favore del Chievo, ma lascia stare. Roberto Milano, buonasera a lei. Come sta? Beh, non c'è male. Lei? Abbastanza. Anche io, sommato discretamente, sotto una pioggia diluviosa qui a Milano, vabbè. Diluviosa, sì, vabbè. Anche a Monza, sì, perché oggi c'era Superbike, ma sono mica riusciti a farla. Prima manche saltata, seconda vinta Six, Melandri quarto, però problemi di pioggia. Dica Roberto. Senta, volevo fare una riflessione. E dice, disastrosa come la stagione del Milan? Diluviosa come la stagione del Milan? No, per l'amor di Dio, no. Oggi niente Milan, per questa sera aspettiamo la partita, poi vedremo magari di commentare domani. No, io volevo commentare, cioè fare con lei una riflessione sulla durata del campionato, che sì. Anzi, più che anche la durata, campionato cos'è? 20 squadre adesso o 19? Non... Sì, no, direi 20, sì, 19 sarebbe 20. Zoppo. 19 non sarebbe possibile. Ecco, secondo me è troppo lungo ed è sbagliato, probabilmente è stato fatto per i diritti televisivi o comunque per riconoscere anche un maggior lucro alle società, alle società ma anche alle televisioni. Il fatto sta che i calciatori arrivano distrutti, cotti, e oltretutto quando dopo 15-20 giorni biennalmente ci sono o gli europei o i mondiali, con risultati anche abbastanza disastrosi. Sì. Perché... No, ma io condivido in valore assoluto, Roberto, però lei sa che comunque è un discorso che va esteso all'intero continente europeo, perché anche tutti gli altri maggiori campionati hanno questa forma extra large, quindi però è condivisibile quanto lei dice. Ma dobbiamo per forza uniformarci tutti, averne 20? Perché io ad esempio, per esempio l'Italia potrebbe avere a 16 o a 15 come era diversi anni fa, sì, o è un discorso, perché è questa uniformità europea per cui tutti i campionati devono avere 20 squadre, per l'amor del cielo, allora facciamo un turno di riposo come in Germania a dicembre, perché perché io francamente vedo i calciatori adesso che al di là delle schizofrenie, no, Roberto, condivido, cioè non, e ripeto, non è obbligatorio uniformarsi, beh, numero pari dei partecipanti, sì, io lo salvaguarderei in linea di massima per non aver campionati zoppi come quello di basket di quest'anno, però indubbiamente è il gigantismo sport moderno che richiede un sacco di squadre, quindi un sacco di partite, quindi moltiplicatore di introiti televisivi eccetera. Per il resto anch'io farei volentieri a meno anche di una buona metà delle partite che vediamo non solo nel nostro campionato. E invece io ringrazio Roberto, molto simpatico, 800240024, invece per me è un piacere parlare con Giorgio Terruzzi, vice direttore di Sport Mediaset. Buonasera, ciao Giorgio. Buonasera a voi. Io partirei, prima di andare su un altro argomento, che è quello che mi sta a cuore e che già dico è degli orossi, perché sul blog di Giorgio Terruzzi ho letto una delle cose, degli articoli più condivisibili in questo bailemme. Vorrei partire dal motomondiale per farti una domanda, per fare una domanda alla tua esperienza, ma il motomondiale sta davvero diventando un po' noioso come la Formula 1 o è solo il fatto che Valentino Rossi si è appannato e abbiamo perduto la libido? Il problema è che dopo una festa così lunga, così intensa, un po' di contrazione c'è sempre, no? Perché qui il discorso di Valentino è molto delicato secondo me, perché al di là delle analisi, perché se questo è un momento di difficoltà che viene in un punto della vita, di una carriera, vicino alla parte finale, e quindi significa avere a che fare con la fine di una lunga festa, no? Mm. E questa cosa un po' di contrazione, di contraccolpo lo dà. Poi in realtà le corse sono molto belle, anche oggi secondo me è una bellissima corsa, ci sono dei ragazzi di primo ordine, cioè, insomma, però questa fantasia, perché poi abbiamo avuto molte vittorie, una carriera straordinaria e anche un modo di stare in vita molto leggero, molto carino, un modo di comunicare che ha conquistato un po' tutti, questa cosa, vedere, avere a che fare con due anni di affanni dopo aver pensato che fosse un ultimo capitolo straordinario, un po' di amaro lo mette in giro, insomma. Sì, quindi la libido che scende è doverosa di fronte al declino di un campione. Giorgio, invece, io leggo questo: non c'è niente di coraggioso in tutta questa vicenda, salvo il coraggio di perderla sta pazienza di fronte ad un arrogantello di 20 anni o quasi, abituato a fare il galletto in campo con le ragazze a bordo del suo SUV bello nel tatuaggio numero 51. Non c'è nulla di coraggioso perché manca sempre quel fattore lì, il fattore palle nel giudicare chi i calci e i gomiti, gli sputi e gli insulti li usa come metodo, come prassi. Un passo di ciò che hai scritto: noto che tra i liberi pensatori sei in buona compagnia, da Michele Serra sulla sua amaca leggevo oggi anche Gianni Mura, dopo un sacco di demagogia. Ma insomma, io sono rimasto sbalordito, resto spesso sbalordito dal calcio. Cioè, ho visto un sacco di gente, compresi ex calciatori, che quando fanno gli opinionisti molti sembra che vengano all'improvviso fuori da un salotto e non da un campo. Cioè, allora, se c'è un mondo dove tutti si permettono di fare di tutto impunemente, da calciatori, dirigenti, cose all'ordine del giorno, senza che succeda niente, all'improvviso si riscopre un rigore assoluto nei confronti di quest'uomo qui, che ha fatto una cosa più umana e più coraggiosa e più comprensibile di altri. Non sto giustificando Rossi, non sto dicendo questo, sto dicendo però che allora, se esoneriamo Rossi, ne esoneriamo 20 ogni settimana. Io non credo che la decisione del presidente Fiorentino sia stata coraggiosa, è una decisione coraggiosa sarebbe stato dire no, noi lo multiamo, lo teniamo, come facciamo con tutti quelli che fanno così. Sì. Perché ecco, tutti fanno così. Io ti faccio due appunti. Il primo è che il torto di Degli Orossi sia stato quello di non avere la freddezza di aspettare quel quarto d'ora a regolare i conti senza telecamere, senza andare in mondovisione. E insomma, all'interno di questa, e l'altro è che molti hanno detto: ma non fosse stato uno come Degli Orossi, che è uno rispettabile, uno stimato, che ha una grande carriera, che è una brava persona, che in fondo è anche simpatico, fosse stato Mihajlovic a fare qualcosa del genere, avreste crocifisso tutti. Questi sono due degli appunti che mi fanno gli ascoltatori. Vabbè, allora, fosse stato è sempre buono, cioè tutta la vita uno può dire fosse stato un'altra, avesse vinto Terruzzi il mondiale di Formula 1 non sarebbe qui a parlare radio, cioè, avesse avuto le ruote, allora, era una fosse cariola. Stato non lo so, certo che un po' di curriculum conta sempre, cioè se uno inciampa una volta è sfigato, se uno inciampa 23 volte o non ci vedo c'è un problema di equilibrio, a parte questo io ripeto, cioè, secondo me De Giorgio si è fatto una stupidaggine, no? Certo. Intendiamoci. Io sto semplicemente dicendo che, allora, a me va bene esonerare Delio Rossi, sospenderlo 3 mesi, però vorrei che questo tipo di modalità fosse applicata a chi manda a fanculo l'arbitro reiteratamente, a chi simula reiteratamente, non mi risulta nessun provvedimento di una società, che poi sono tutti bravi a far la morale, a dire noi lo sport, quelle balle lì, contro un proprio giocatore che fa una porcheria. C'è una reiterata, costante richiamo, gioco sugli arbitri per ottenere, cioè è una cosa di una vecchiume, sì. Cioè è insopportabile. Allora, Delio Rossi non paga tutti i conti, secondo me. No, di sicuro. Giorgio, ti ringrazio, è un piacere. A voi, grazie, buon lavoro. Antonio da Napoli e Sandro da Roma, prossimi due in linea. Antonio, buonasera. Buonasera a lei, direttore, buonasera. Non sono direttore, tutto niente. Comunque, complimenti per la trasmissione, grazie. Innanzitutto. Chiamo da una soleggiata, ma allo stesso tempo triste Napoli, perché insomma, a due passi da un piccolo grande sogno. Diciamo se... Senta, ma mi dica una cosa subito. Sì. Innanzitutto la invidio il sole guardando fuori dalla finestra, sì. Ma questa stagione del Napoli, io sono d'accordo con quanto, non so se l'ha sentito, ha detto prima Giovanni Galli, cioè sì. Dire che questa stagione sia fallimentare, dire che sia una cattiva stagione del Napoli, io non ci sto, perché perché non si vive, non si campa di soli risultati, e la stagione europea è stata qualcosa di indimenticabile. La finale di Coppa Italia è da giocare e per il secondo anno consecutivo arrivi ad un passo dalla zona Champions. Io direi che è stata fallimentare la spedizione di Bologna, la stagione no. Sì, assolutamente, sono d'accordo. La stagione è stata assolutamente esaltante per la squadra, per noi tifosi, per la città. E probabilmente la squadra è andata anche molto al di là delle proprie possibilità, seppur insomma molto valida, una squadra molto valida dal punto di vista tecnico, ha dato sempre il cuore. Il mio commento era relativo indubbiamente a queste ultime 3 giornate dove insomma, quando la Lazio ci ha rimesso in corsa io ero come molti altri abbastanza fiducioso, proprio perché a questo punto sarebbe dipeso tutto da noi, e è forse un po' estremo nel giudizio, perché ho sempre sostenuto nelle ultime settimane che una squadra che voglia avere ambizioni di Champions non può non pensare di battere Palermo, Bologna e Siena oramai già salve. Guardi, mi dà il Napoli, mi dà l'impressione di presente quella vacca che ha riempito il secchio di latte e poi l'ha rovesciato con un calcio, perché è andata così. Sì. D'altra parte ci vuole, non è semplicissimo, e il discorso si può allargare tranquillamente anche alla Juventus, non è semplicissimo vincere queste partite, ci vogliono delle qualità anche di freddezza, di freschezza, che probabilmente il Napoli non ha avuto. Certamente oggi ha giocato, ha sprecato tutto quanto poteva nella prima parte della gara e poi ha giocato proprio male, perché nel secondo tempo non ha costruito in fondo nulla, con un sacco di attaccanti in campo, e si è prestato al contropiede dello splendido, ripeto, dello splendido, anche come atteggiamento, perché anche queste cose contano e vanno sottolineate, splendido Bologna di Stefano Pioli. Perché se c'è un modo in cui si gioca la penultima di campionato, in cui si giocano le partite, è questo, che altro che serio, che ha il Bologna, che ha il Parma, che hanno diverse squadre, magari non tutte, anzi certamente non tutte. Sandro, Roma, buonasera. Sì, buonasera. E io volevo dire che Delio Rossi per me è diventato il mio idolo. No, idolo è troppo. No, per me sì. È diventato il mio idolo perché ha avuto una sana reazione vera di fronte a degli scenari veramente scandalosi, cominciando da quei tifosi messi su quel parvetto lì con le magliette, quella scena pietosa di 4 teppisti nessuno è intervenuto, cioè voglio dire, ha reagito in modo sano. Ma lei di cosa sta, quali, a quali tempisti si riferisce dei tanti? Quelli di Genova, quelli che hanno fatto togliere la maglietta al capitano, un altro po' si doveva inginocchiare, cioè ieri non so se lei le ha viste immagini anche più violente, se vogliamo, le ho viste a Colonia, dove retrocessa la squadra di casa, ci sono stati molti disordini dentro lo stadio, in curva, con invasione di campo, con una protesta molto più feroce di quella di Genova, che è stata di una volgarità rara, sia chiaro. Lì però è intervenuta sul serio la polizia e ha messo tutti in riga, ha messo tutti a posto, come si dovrebbe fare. Però Sandro, mi perdoni, ma idolo è troppo, perché certamente Deglio Rossi ha sbagliato nei modi e nei tempi, ha sbagliato nei modi e nei tempi, di sicuro. Poteva e doveva esserci un chiarimento con un ragazzino che l'aveva offeso e insultato, ma diciamo che è stato per lui stesso, e mi dispiace molto perché è un allenatore che stimo molto ed è anche una persona che stimo molto, è stato per lui un clamoroso autogol, quindi non si può diventare idoli per due ceffoni dati a un ragazzino maleducato. Si può però capire chi perde la pazienza di fronte a una situazione di questo tipo. Ha sbagliato perché ha perso la testa, punto e basta. Questa è la mia opinione. Idolo mi sembra tanto. Allora, l'ultima volta che ho visto Aldo Montano di persona era diversi anni fa ad Atene, peraltro in una notte finita un po' per le lunghe. Erano tempi in cui vincevo un sacco di medaglie d'oro, e diceva, mi ricordo questa dichiarazione sentita da lui, Aldo, non so se te la ricordi, ciao intanto. Ciao. Le medaglie sono come le patate fritte, non sono mai abbastanza. Bravo, sì, me l'hai fatto ricordare te ora. Hai visto? È vero. Ma guarda, è la cosa vera comunque. Sì, sì, perché non c'è mai fine, c'è sempre voglia di vincere, voglia di mettersi sempre in discussione, quindi più ne vengono e meglio è. Sì, questo sicuro. Poi ci siamo un po' persi di vista perché tu hai cominciato a frequentare il jet set. Quando ti è tornata la voglia di mangiare le patate fritte, o meglio, di vincere le medaglie? L'hai scritto in un libro che è Risorgere e Vincere, che peraltro non ho ancora letto, ma prometto di leggerlo. Guarda, Risorgere e Vincere è un libro che è la storia di un anno, un anno di vita, un anno di sport, che va dal 2010 al 2011. Sì. 2010, dove così mi ero. Avevo riconosciuto di avere un problema principalmente, e mi sono rivolto ad una persona per cercare di risolverlo. Sì. La parte psicologica della scherma, nello sport, è fondamentale. Sì. Fino a quel giorno io non pensavo fosse tale. Allora il professor Nardone, che ringrazierò sempre, che tra altre cose mi ha aiutato anche a scrivere questo libro, proprio scritto insieme anche al nostro commissario tecnico Giovanni Sirovic, è stato un percorso di un anno dove attraverso tecniche particolari, psicologiche, siamo riusciti a migliorare la concentrazione, migliorare l'autostima, migliorare tanti aspetti che magari fino a poco tempo fa non pensavo fossero così importanti. Sì, magari uno sportivo tende a curare molto l'aspetto atletico, tattico, tecnico, e tralascia magari tanti altri aspetti che poi nel momento importante di un mondiale sono necessari. Sì, penso sia stato molto più difficile ritrovare le motivazioni, forse la voglia di soffrire del braccio, perché quello l'hai sempre avuto. Ma no, io quello, guarda, io gli anni precedenti, te facevi prima un paragone su dopo Atene 2004, sono tre stagioni molto importanti per me, tra cui quella dopo, subito ho vinto anche l'Europeo, andavo benissimo in Coppa del Mondo, e poi nel momento più importante, che è quello magari anche più visibile, che è il Mondiale, non riuscivo a trovare quella continuità che avevo durante la stagione di Coppa. E fino al 2010, quando mi sono rotto le scatole di stare là a fare benissimo da gennaio a giugno e poi arrivare al Mondiale e non riuscire ad esprimermi, e quindi il percorso nuovo è stato questo, che poi è stato anche scritto sul libro, perché poi fondamentalmente il percorso vincente, che siamo arrivati al Mondiale di Catania, dove abbiamo vinto, quindi è stato bello anche riscriverlo. Ascolta, visto che ci conosciamo, anche se non ci vediamo da un sacco di tempo, mi posso permettere di chiederlo, quando ti è costata sportivamente una vita in copertina? Ma a me non credo che sia un costo, no. Anzi è un guadagno, non è assolutamente un costo, perché io non ho mai tralasciato niente di quello che è stata la mia preparazione alle gare e la mia preparazione a quegli appuntamenti importanti in tutta la stagione. Sei più esposto e quindi esponendoti ti pigli un po' di critiche, le butti giù e le digerisci, tanto se il risultato non viene perché ti fai un servizio fotografico, perché ti fai un pomeriggio in un programma televisivo o una chiacchierata in radio come vi sto facendo oggi con voi. Sì. Aldo, ti chiedo ancora questo, ma senza Livorno starai col livornese Allegri, immagino, stasera? Guarda, io sto andando a vedere proprio la partita. E sarò con il livornese Allegri, ovviamente, perché parte del Milan è livornese, insomma, sì. L'allenatore è dei nostri, quindi... Ah. Farò il tifo sicuramente per lui. Hai sentito cosa ha detto ieri? Basta, continua a dire di Montari, si vede che sto invecchiando, sto diventando noioso. Forse solo uno di Livorno poteva uscire con una roba così. C'ha ragione. Però la bandana non la porti, no? No, ormai sono finiti quei tempi là, perché Livorno ormai non naviga in buone acque. I tempi della Serie A sono passati. Idealissimo. Ci vorrà un po' di tempo prima di rivederlo. Di rivederlo. Grazie Aldone, un abbraccio. Spero di vederti presto. Grazie. Grazie Aldo Montano. Torniamo agli ascoltatori. Filippo Aureggi aspetta. Voglio parlare con Franco da Salerno. Buonasera. La ringrazio per avermi dato questa opportunità. Grazie a lei, dica. Io voglio portare una testimonianza a favore dell'uomo Demio Rossi. Oggi a Salerno si giocava un'ultima partita del campionato di Serie D e la Salerno Calcio si giocava la promozione nella serie semidivisione professionista o professionista, non si saprà come andrà a finire, se giocherà in C1 ovvero no. Prima dell'inizio della partita, sugli spalti, i tifosi della Salernitana hanno intonato l'inno a Demio Rossi, quello stesso inno che gli spettatori cantavano quando Demio Rossi ha portato la Salernitana alla C, poi in B, poi in Serie A. Quando Demio Rossi rappresentava per i giovani di Salerno un punto di riferimento, un elemento di buona educazione, a cui ispiravano la propria attività tantissimi giovani. Franco, detto questo e con questa premessa doverosa, ha fatto male a fare quello che ha fatto e su questo siamo tutti d'accordo. La mia opinione, ha perso la pazienza e ha perso la testa. Però io non ho sentito nella sua trasmissione alcuna espressione a favore dell'uomo che può essere stato colpito in quella sede. Mi perdoni, vorrei completare. Sì, prego. Così come un secondo aspetto non ho sentito considerato. Ma qualcuno ha notato che nel momento in cui Rossi si è rivoltato contro il suo calciatore, ha perduto l'equilibrio ed è scivolato nella buca, quindi è caduto nella buca, non si è lanciato addosso al calciatore, probabilmente non avesse perduto l'equilibrio, fosse rimasto con i piedi sul campo. Dico due cose molto rapide e poi mi devo fermare. Non starei a fare la moviola anche del movimento di Delio Rossi, perché lo eviterei. Certamente ha aggredito gli Aic, ripeto, ha perso la pazienza e ha pagato e pagherà anche dal punto di vista dell'immagine. Questo mi dispiace molto. Quanto al parlare dell'uomo Delio Rossi, io sono abituato a me piace molto come allenatore, mi piace come personaggio, è uno che insomma che ha la mia stima e che non ha perso la mia stima. Però parlare dell'uomo Delio Rossi io non posso, perché non lo conosco bene. Io parlo degli uomini che conosco bene. Non so se e quanto lei lo conosca, però questa abitudine di dire parlo dell'uomo Delio Rossi, parlo dell'uomo Lippi, parlo dell'uomo Baggio, insomma, bisogna conoscerle bene le persone prima di mettere anche di fare queste premesse. Ripeto, è un professionista, è un allenatore che ha la mia stima e non l'ha persa. Inghilterra ha vinto il Manchester City, vi ricordo, 2-0, l'ho detto prima, sul campo del Newcastle, peraltro una trasferta difficile con Newcastle impegnato in piena lotta per il quarto posto, doppietta a Touré. Sta vincendo anche l'altra metà di Manchester, lo United in casa con lo Swansea, avversario certamente più abbordabile ha aperto le marcature l'eterno Scholes e poi gol anche di Young, ma il City per effetto dei confronti diretti mantiene comunque la testa della classifica a una giornata dalla conclusione del torneo e peraltro in attesa anche del finale di questa gara che è nel secondo tempo, Manchester United-Swansea. Comunque City vicinissimo al titolo. Michele, provincia di Lecco, 800 24 00 24, fa sentire la vostra voce in A Tempo di Sport. Sì, buonasera. Buonasera. Buonasera, volevo solo dire una cosa ancora, ritornare su Delio Rossi, ma lo dico da imprenditore, nel senso che è encomiabile il suo gesto che ha fatto, quindi niente da dire perché ha sbagliato, anche se la reazione è molto umana, quindi comprensibilissima. No, ma scusi, è encomiabile che cosa? No, non è encomiabile, voglio dire, ha sbagliato con quel gesto che ha fatto. Okay. Non è encomiabile, ho sbagliato. Ho capito. Però quello che intendevo dire da imprenditore è questo. Il giorno dopo ho letto la dichiarazione di Della Valle che hanno detto ci dispiace perché era l'uomo giusto per il nostro progetto. Allora se era l'uomo giusto per il nostro progetto, io gli avrei fatto scontare 3 mesi che sconterà, visto che ha ammesso di aver sbagliato e tutto. Ma l'avrei tenuto, porca miseria, questo che intendo dire. Tutto sì, qua. Sì. Sono d'accordo, se ritieni che sei l'uomo giusto per il tuo progetto e mantieni, questo vuol dire, se ritieni che sei l'uomo giusto per il tuo progetto, vuol dire che mantieni la stima della persona nonostante il chiaro errore commesso e dunque la conseguenza dovrebbe essere quella che lei dice. Poi vabbè, qui le opinioni, ha ragione un ascoltatore di Milano, poi la questione rischia di diventare un po' barbosa in realtà, perché ne parliamo ormai da giorni, forse troppi. Ha ragione un ascoltatore di Milano che non si firma ma scrive: mi pare che tutti i commenti su Rossi siano bianchi o neri, penso che questa sia una zona grigia, una persona degna di rispetto e stima ha comunque irrimediabilmente sbagliato anche concedendo tutte le attenuanti del caso. Giulio da Milano, buonasera. Sì, buonasera, grazie per avermi chiamato, volevo giusto avere da te un commento sul come mai non è stato concesso a Lecce la possibilità di poter giocare lo stesso giorno di una sua concorrente per la retrocessione, dargli almeno un'altra giornata di benzina nelle gambe. Perché hanno sbagliato. No, io la ragione, non la conosco, certamente posso valutarla, è un errore, è stato un errore quella di non concedere la contemporaneità anche a Lecce, così come è stata concessa alla Juventus e al Milan. Giustamente Giorgio De Luca mi segnala che abbiamo anche un'opinione, diciamo così, espressa ieri ai microfoni di Sky, al microfono del collega Cattaneo da Serse Cosmi. Sentiamo cosa ha detto. Mi dovete spiegare solamente una cosa. Se la Juve per calendario doveva giocare pomeriggio, come mai è stata fatta giocare la sera? Questo è un discorso molto complesso, però la risposta la può dare. No, è un discorso molto semplice. Sì, però la risposta, l'interlocutore ideale non siamo noi, Cosmi, purtroppo, ma è la Lega Calcio, perché nel 2009 è stato firmato un contratto per cui la contemporaneità era stata stabilita e sancita soltanto per... Il colloquio con voi, ho capito, lo so che non siete voi, dico però io devo parlare con qualcuno, non posso andare in Lega a parlare di questo. E quindi voi siete un emittente, voi mi date la possibilità di parlare, io faccio una domanda e non è che siete obbligati a rispondermi. No, certo, c'è già la risposta. Allora giratela e ditemi come mai la Juve gioca domani sera insieme al Milan e noi no domani insieme per esempio alle altre squadre interessate. Ditemelo, se c'è un motivo logico ditemelo, se non c'è uguale. Grande Serse Cosmi, con qualcuno devo parlare, io sto parlando con voi. si sono sentiti punti sul vivo a Sky, però ha ragione, non è che ci sono molte discussioni, ha ragione Serse Cosmi, così come ha ragione l'ascoltatore che chiedeva ma mi spiegate perché anche qui non posso rispondere io anche se non abbiamo firmato nessun contratto per la contemporaneità, come faccio Giulio da Milano a risponderle io? Risponde Cosmi, perché è così, perché io credo che nelle ultime giornate di campionato sia giusto per tutti quanti abbiano discorsi aperti, quindi facciamo prima dire oggi c'erano Novara Cesena e Palermo Chievo che non contavano un tubo, Siena Parma contava non tantissimo, è stata giocata alle 12:30, ieri Lecce Fiorentina e Roma Catania contavano di più. Ebbene, mi piacerebbe quantomeno nelle ultime giornate vederle giocare tutte insieme per evitare troppi discorsi su cui noi italiani siamo per la verità specializzati, perché sulla dietrologia la medaglia d'oro non ce la leva nessuno a qualunque competizione. Vincenzo, Salerno. Vincenzo? Pronto? Pronto? Eccomi, ci sono. Buonasera. Buonasera. Mi volevo complimentare con lei perché in tutto questo sciocchezzaio che si è detto sulla questione di Delio Rossi forse ha detto la frase più bella. Ha detto: io non perderò la stima di quest'uomo, e penso che sia la cosa migliore da dire in questo caso. Al di là di tutto quello che è successo, perché è tutto comprensibilissimo, tutto certo non giustificato ma comprensibile, anche perché Delio Rossi è una persona che ha avuto tanto dalla vita e purtroppo ha avuto anche i suoi disagi, sì, come tutti però, noi del resto. Attenzione però, Vincenzo, io non voglio andarla metterla troppo sul personale, perché io Delio Rossi lo conosco professionalmente, è stato molte volte ospite di questo programma, ho con Delio Rossi esclusivamente un rapporto professionale, quindi non posso dire di conoscere l'uomo. Anche se mi sembra una persona gradevole per i rapporti diretti pochi che ho avuto io, quindi io dico soltanto che nonostante questo errore che ha commesso, questa sciocchezza, questa stupidaggine, questa cosa, io non perdo la stima dell'allenatore Delio Rossi, del professionista Delio Rossi, che ha commesso un errore, che ha perso la pazienza, punto. Non voglio metterla troppo sul personale perché non mi pare il caso, e anche perché non ne ho il titolo, nel senso, io le persone le devo conoscere bene per esprimere un giudizio sulla persona, mi perdoni. Dica, Vincenzo. Ho capito, il problema è che il calcio italiano non deve perdere la stima di Delio Rossi, perché è una persona che potrà dare ancora tantissimo e ha molte qualità per fare bene in qualunque posto dove va, quindi questa è la cosa importante, perché il calcio non perda la stima di Delio Rossi, perché sennò altrimenti sarebbe davvero brutto, perché alla fin dei conti si reagisce male. Anche io ho fatto sport a livello semiagonistico, semiprofessionistico, succede di tutto con gli allenatori, si ci dice di tutto, però c'è un punto in cui si esagera, e quando soprattutto si toccano problemi personali gravi come quelli che può avere una persona come Delio Rossi. Quindi l'importante è che sia il calcio italiano a non perdere la stima di Delio Rossi, questo è quello, l'unica cosa che mi sento di dire. Perciò mi è piaciuta molto la sua frase: io non perderò la stima di Delio Rossi. No, ma questo riguarda, però ripeto, questo riguarda esclusivamente sottoscritto, nel senso che poi il calcio italiano, vediamo, il calcio italiano ha la memoria corta, se vuole avere la memoria corta gli conviene, ha la memoria lunga da elefante se conviene il contrario. Piuttosto mi domando, per quel poco che lo conosco, se Delio Rossi avrà ancora voglia, ma questo l'ha già detto, di cimentarsi con questo calcio, di confrontarsi con questo calcio, perché sono convinto che quello che sta peggio in questa vicenda è proprio lui, perché sa perfettamente quale errore ha commesso. Allora, c'è chi scrive: il Lecce retrocede perché gioca il sabato, siamo proprio la Repubblica delle Banane. No, il Lecce non retrocede perché gioca il sabato, però la competizione, la parità sportiva avrebbe richiesto parità di trattamento per la lotta a scudetto, come è giusto che sia, e anche per la lotta a salvezza, non vedo perché no, e anche per la corsa verso la Champions League, non vedo perché no, perché quando si arriva a fine campionato è evidente che la contemporaneità è un fattore da non trascurare, quindi Serse Cosmi ha tutte le ragioni del mondo per lasciare lì in sospeso dai microfoni di Sky, perché lì lo fanno parlare, altrove magari no, visto che hanno i diritti, ha del tutto ragione a lasciare lì questa domanda: ma perché noi no? Io ho detto prima che nel Gran Premio della dietrologia noi italiani non ci batte nessuno, però questo mi sembra davvero tanto, questo messaggio. Lei non ha avuto la sensazione, mi scrive un ascoltatore, che Buffon l'errore, ovviamente quello commesso l'altra sera con il Lecce, l'abbia cercato? Ditemi voi se Buffon cerca, che poi cercato in che senso, non capisco, abbia cercato l'errore che potrebbe costare alla Juventus uno scudetto, ma non diciamo sciocchezze. 800 24 00 24, non scriviamole nemmeno, 349 238 6666. Silvano da Melegnano. Sì, buonasera. Buonasera. Volevo esprimere un mio giudizio assolutamente personale, quindi discutibile evidentemente, sempre sul Delio Rossi. vorrei dare tutta la mia simpatia e tutta la mia approvazione a quello che ha fatto il signor Rossi, perché probabilmente c'è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, quindi probabilmente c'erano state molte gocce prima, non credo che lui abbia avuto una reazione così forte solo per una frase, probabilmente era una cosa che si ripeteva, no? Quindi io avrei fatto lo stesso, e avrei, però fossi stato il presidente, avrei preso l'allenatore, un calciatore in una stanza assieme al presidente, avrei chiarito la cosa e dopo avrei preso le decisioni. Silvano, però questa seconda parte del discorso secondo me può valere, perché negli spogliatoi ne succedono molte, no? In parte le conosciamo, in parte non le conosciamo, perché ovviamente vengono tenute celate di schiaffi tra calciatori, di litigi, e si parla ancora di Lippi e della famosa lite con Deschamps nello spogliatoio della Juventus, e poi certe cose diventano leggenda, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la seconda parte, il presidente che dice "oh, cosa fate?", va bene. Il problema è che questo fatto è avvenuto praticamente in mondovisione, perché queste immagini hanno fatto il giro del mondo. Secondo me Degli Rossi ha sbagliato come allenatore, strategicamente, se vogliamo, se c'erano già dei problemi, se immaginava questa reazione del giocatore, ecco, avrebbe dovuto andare al momento del cambio, andare in fondo alla panchina e stare lì un po', come faceva il mio amico Dan Peterson quando allenava, racconta spesso: cambia un giocatore, questo è arrabbiato, va in fondo alla panchina, lascialo sbollire, non sentire cosa ti dice, magari ti insulta, eccetera eccetera, fai finta di niente e vai laggiù in fondo. Poi, quando eventualmente ci può essere un momento in cui confrontarsi con anche con la durezza del caso, senza arrivare per forza alle mani addosso. Questo è quanto, insomma. Quindi il fatto che questa vicenda si è svolta sotto gli occhi del mondo, l'ha vista anche in Spagna Filippo Maria Ricci chissà quante volte. Sì, abbastanza. Buon pomeriggio. Ciao Filippo, corrispondente della Gazzetta dello Sport, nostro vecchio amico Filippo Maria Ricci. Cosa ne pensi tu di questa storia che sta diventando anche un po' barbosa di Degli Rossi? Sì, stucchevole, assolutamente. No, io penso che alla fine la vedo, alla fine Rossi ha sbagliato, insomma, sì. Con tutto le attenuanti del caso, gli diamo tutte le attenuanti del caso, però comunque la reazione è esagerata e basta, insomma, sì. Comunque non so, io la vedo, va bene, ha sbagliato, c'è la squalifica, c'è l'esonero, appunto, via, andiamo avanti, perché insomma, d'altra parte reazione, Filippo, tu capirai anche tu capirai anche come dalle nostre parti, dopo che vedi i tifosi del Genoa, dopo che vedi Degli Rossi, dopo che vedi mille di queste cose qui e le vedi tutte le domeniche, è con un sottile, dicevo prima, sbagliatissimo, ma perverso piacere che poi vediamo le immagini di Colonia e anche la bottiglia in faccia che prende Clos Gómez, arbitro di Granada Real Madrid di ieri sera. Non ti dico ovviamente mal comune mezzo gaudio, perché di gaudio in questo caso ce n'è zero su tutti i fronti. Però almeno dici certe cose, fornisce degli alibi e fornisce delle attenuanti importanti a un calcio in difficoltà, a poter dire ma guarda quello cosa ha fatto, che è un discorso da poveri e da perdenti, che è un discorso da idioti, resto un discorso da idioti, però è un discorso anche che si fa, purtroppo, che viene così, che attecchisce, che fa presa, però insomma, questo è così, il nostro calcio in questo momento funziona così, per cui se troviamo dei cattivi esempi in giro per il mondo, insomma, va bene. Ci attacchiamo, A me fa piacere, nel senso, allora possiamo, dei cattivi esempi ne abbiamo tantissimi, guarda, in Argentina si sparano, anche in Brasile muoiono, quindi se vogliamo arrivare a quel livello c'è di peggio, insomma, se vogliamo guardare la realtà in questa maniera, dico, lì non si va più allo stadio, no, comandano solo gli ultras. Dipende dal livello di inciviltà con cui si vuole scendere, per carità, peggio non c'è mai fine, caro Filippo. C'è sempre di peggio, certo che ieri sera in Granada Real Madrid è successo qualcosa che non si vede anche nel calcio italiano tutti i giorni. No, questo figurati, senz'altro. Il giocatore, questo Dani Benitez. Tra l'altro, in maniera a me è piaciuto come le hanno dato anche del codardo, soprattutto, oltre che del selvaggio, poi gli hanno detto in più ha tirato anche la bottiglia da dietro senza farsi vedere. c'è anche questo aspetto, per me è curioso. E niente, ha tirato una bottiglia, l'arbitro comunque molto, molto tranquillamente, il guardaline l'ha raccolta, lui l'ha messo nel referto. La cosa più bella per me comunque resta il fatto che il referto dell'arbitro qui è pubblico, dopo dipende 10 minuti, 20, mezz'ora, un'ora, è disponibile su internet per chiunque lo voglia leggere. Non c'è nulla di nascosto. L'abbia detto, mi è arrivata una bottigliata, cioè, mi ha provocato una leggera infiammazione, non ho avuto bisogno del medico, arrivederci, poi prendete voi le vostre decisioni, certo. Insomma, si rimette in mano della giustizia sportiva e così sarà. E basta. Più grave quello che ha detto il dirigente del Granada, ha detto più o meno che il Saragozza si sta comprando le partite, e altre cose molto poco carine e che fanno molto poco onore al calcio spagnolo. Per me è più interessante questo aspetto che la bottigliata. Sicuro, non c'è dubbio. Come ha festeggiato Real? Ancora non hanno finito, mi sembra, adesso ho perso il conto, mi sa che si allenano a metà della settimana. Giustamente è stata una stagione talmente stressante e talmente, diciamo, il logorio alla fine è tale che Mourinho continua a dare dei giorni di festa, e anche ieri sera mi sembrava che fossero abbastanza in vacanza. Hanno vinto la Liga, mancano due partite, onor di firma, se si riusciva a far gol a Ronaldo meglio, se no va bene, insomma, caro Cristiano, prenditi la Liga che noi siamo in vacanza, insomma, che almeno era questo fa molta differenza. Sia ritorno da Bilbao e poi qua, insomma, anche se poi il giorno proprio della festa è stato un po' rovinato dalla pioggia. Sì, abbiamo avuto la primavera, gennaio e febbraio, è arrivato l'inverno. Anche questo mal comune mezzo gaudio, caro Filippo. Senti, ti faccio sentire, voglio farti sentire cosa ha detto, magari me l'avrai già sentito, Luis Enrique ieri sera su Guardiola. Ho avuto la fortuna di despedire a Guardiola, la sfortuna in quel momento come calciatore, e adesso lo vedo come allenatore, e sono sicuro che ritornerà a Barcellona perché è il suo paese, la sua squadra, e sicuramente riposerà un po', ma deve ritornare perché a Barcellona è quasi Dio e ha fatto un lavoro incredibile, e sotto il lavoro e sotto la cultura di la umiltà e del rispetto all'avversario, e penso che quello che è riuscito a ottenere significa tantissimo per tutti che siamo culés. Beh, poi cede anche Luis Enrique, però Filippo, ieri sera, libro cuore. Che ci crede, insomma, sì. Non lo fa perché non è uno dei suoi fedelissimi, non è un guardioliano di ferro, quindi gli fa onore a Luis Enrique. Beh, ieri sera è stata veramente una grande festa al Camp Nou, emozionante. Bello, ecco, insomma, alla fine vedi, poi uno, no? Ci ritroviamo e magari parliamo della bottigliata di quell'asino di Dani Benitez, quando in realtà la festa al Camp Nou è stata sicuramente emozionante, bella, con ogni dettaglio, la musica, gli striscioni, le cose dette, il giro tondo, insomma, molto molto bello. E sì, adesso sì, è bello, a parte che fa ridere perché c'è ancora due partite, deve giocarsi ancora una finale di Coppa del Re, già gli dico, no, ma cosa farai? Dice, quando tornerai? Dice, ma no, non me ne sono ancora andato, giustamente, dice Guardiola. Fatemi finire il lavoro. Che torni da presidente, che a me fa un po' ridere, dico, perché perché Guardiola deve fare il presidente? Insomma, no? Lo vuole fare a qualcuno meno preparato in panchina, no? Sì, no, ma sentito Luis Enrique che dice, è quasi Dio, abbiamo detto molte volte, può aspirare alla poltrona una presidenziale spagnola, sì, lo vedremo. Re di Spagna non credo, però una presidenziale spagnola non so quanto gli interessi, perché se entriamo in politica allora giustamente lasciamo stare che siamo in par condicio, Filippo, siamo in par condicio, anche la parola politico è bandita. Ti ringrazio, Fin, è tempo scaduto, ci sentiamo alla prossima, che sarà domenica. Noi invece ci sentiamo più tardi alle 8:30, quando c'è Palla a Spicchi, per raccontarvi l'ultima giornata di Serie A, quindi la griglia dei playoff. A dopo.